24, musica e storia. Buongiorno e bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Io sono Alessandra Fiori. E io sono Franco Schipani. Ciao a tutti, ciao Ale. Senti Franchi, la senti questa canzone? Come non potrei. Perché siamo nel 2006 e siamo campioni del mondo. La nazionale italiana vince i mondiali di calcio in Germania. La finale si gioca a Berlino la notte del 9 luglio. Le squadre in campo sono l'Italia e la Francia. E indimenticabile resta, lo sai dove vado, la testata di Zidane a Materazzi. Che poi è una cappucciata. Una cappucciata, lo possiamo dire alla romana. Zidane viene espulso, la partita si decide ai calci di rigore. La nazionale azzurra, dopo quelli del 34, del 38 e dopo il mondiale dell'82 in Spagna, vince il suo quarto titolo. Ed è gol! È finita! È finita! È finita! Bravi. È finita! Il cielo è azzurro sopra Berlino! Siamo campioni del mondo! Il cielo è azzurro sopra Berlino, grandissima storica frase di Marco Civoli che firma la telecronaca della finalissima. Franco, tu dov'eri? Io ero a casa di Giovanni Minoli. No! Stavamo vedendo tutti la partita insieme sotto, e a un certo punto, quando è arrivata la lottina dei rigori, io veramente non ce l'ho fatta, mi sono sentito male, ho detto non lo so, mi sono chiuso in una stanza da non solo. Non l'hai visto? Da solo. Non mi me sono chiuso in una stanza da solo, non ce la facevo. Non l'hai visto? E a un certo punto ho sentito un boato, però era un boato di gioia. Beh, certo. E ho detto ce l'abbiamo fatta e sono finalmente uscito dalla stanza. Franchi, lo sai che comunque invece io, al contrario di te, non ero a Roma purtroppo, dove ci sono stati dei festeggiamenti pazzeschi. E quando gli azzurri sono tornati in Italia, centinaia di migliaia di persone hanno raggiunto la nazionale al circo Massimo per una festa che è durata tutta la notte. Io me la son persa, Franchi. Io no. Tu no. Allora, campioni del mondo, altri campioni italiani del 2006, Franco? Passiamo ai campioni della nostra classifica, come al solito, con il brano più di successo, quello single del 2006. E svegliarsi la mattina con la voglia di parlare solo con te. Non è niente di speciale, ma questo mi fa stare bene solo con te. Sai cosa c'è, ma cosa ci sta, quando in fondo ad una storia nessuno sa come andrà. Tu mi spiazzi e ogni volta che mi guardi mi parli. Svegliarsi la mattina, zero assoluto. Continua il trend positivo della musica italiana, cara Alessandra, nelle classifiche dei singles più successo del 2006. Gli zero assoluto, che sono poi due ragazzi romani che si sono conosciuti proprio sui banchi di scuola, sono la novità dell'anno con questo single. Pensa che al secondo posto c'è un altro loro singolo che si titolava Sei parte di me. Ma lo sai che a me non dispiace svegliarsi la mattina, però mi criticano molto nella regia, dicono che sono in una fase di down, evidentemente non so che dire. Non sanno di cosa stanno parlando. Esatto. Comunque il trend positivo non è solo per la musica in questo 2006, ma anche per l'economia italiana, che ha dei dati che oggi sembrano un sogno. Infatti il PIL è in aumento dell'1,9% e il tasso di disoccupazione è al 6,8. Scusa, hai detto 6,8? Esatto, 6,8. Sì, perché oggi siamo intorno al 12, Franchi, quindi è un po' diverso. Dati pre-crisi economica mondiale, crisi che però ormai è alle porte. Intanto in questo 2006 l'Alitalia sciopera, la Fiat torna inutile, la bistecca fiorentina torna sulle nostre tavole dopo la crisi del morbo della mucca pazza e l'influenza aviaria arriva invece in Italia. Però, cara Alessandra, è anche l'anno della consacrazione di un artista che oggi riempie gli stadi italiani e va fortissimo in Europa e in Sud America. Ed ero contentissimo in ritardo sotto casa, io che ti aspettavo. Stringimi la mano, poi partiamo. In fondo eri contentissima quando guardando Amsterdam non ti importava della pioggia che cadeva. Solo una candela era bellissima, il ricordo del ricordo che ci suggeriva che comunque tardi o prima ti dirò che ero contentissimo, ma non te l'ho mai detto, che chiedevo Dio ancora, ancora, ancora. Stop, dimentica. Questo silenzio non vale neanche una parola, né una sola, e quindi stop, dimentica, perché tutto il resto andrà da sé. Dimentica perché, dimentica per me. Una storia grande come il mondo tua storia. Stop, dimentica questo silenzio, non vale neanche una parola né una sola, e quindi stop, dimentica perché tutto il resto andrà da sé. Tiziano Ferro, Superstar, con Ed ero contentissimo e Stop, dimentica. Tiziano Ferro, che è nato a Latina, però la famiglia è di origine veneta, di Cavarsere. Allora, Alessandra, ti dice niente questo nome Cavarsere? Cavarsere. Franchi, no, nulla, dovrebbe? Ma dovrebbe assolutamente. Perché? Guarda, ti rinfresco la memoria. Pronto? Signorina, vorrei parlare col direttore. Direttore, come va? Senta, mi scusi se la disturbo. Lei non ha mai sentito parlare di un certo dottor Tanzarella? Sì, sì, Biagio Tanzarella. Di Cavarsere. Di Cavarsere. Oh, al malato è lui. E il medico sono io. Lo vuoi sapere più di me? Se ti dico spogliati, spogliati. No, dottore, solo che non capisco. Non devi capire, figlia mia, non devi capire che. Certe malattie si trasmettono da padre in figlio. Io voglio constatare, è la scienza che me lo ordina, voglio constatare se la malattia di tuo nonno si è trasmessa in te, che sei sua nipote. Spogliati. Hai capito, Totò? Ho capito, Totò. Anche allora, possiamo dire che Cavarsere è diventata famosa anche grazie a Totò, come il Kansas City, ti ricordi, l'americano a Roma, certo, è diventata famosa sì, anche grazie ad Alberto Zurdi. Franchi, ma lo sai che il 2006 ha una pagina politica molto importante? Certo. Sei pronto? Prontissimo. E allora ti racconto che il 10 febbraio il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, scioglie le Camere e apre così la campagna elettorale. Si vota l'11 aprile con una nuova legge elettorale che prevede che le coalizioni indichino il loro capo e il programma. La sfida è quella tra Silvio Berlusconi e Romano Prodi. A una settimana dalle elezioni, due leader si confrontano in un faccia a faccia nel salotto di Bruno Vespa. 12 milioni di spettatori per un 42% di share seguono la trasmissione su Rai 1, che si conclude con l'appello finale dei due minuti. Inizia Romano Prodi. Questi 5 anni di governo ci hanno lasciato un paese diviso. Viviamo in un paese diviso fra loro e noi, viviamo in un paese diviso fra ricchi e poveri, fra meridionali e settentrionali, fra lavoratori e disoccupati, fra giovani e vecchi. Un paese diviso non può vincere le sfide di questo mondo, non può vincere le battaglie che abbiamo di fronte, non può vincere le trasformazioni della globalizzazione che ci hanno portata la crescita zero, che ci hanno portato a queste difficoltà. Prodi punta sulla divisione causata dal governo precedente e sull'unità che offre il suo governo, che poi, Franchi, sappiamo non essere esattamente il punto forte della sinistra italiana, l'unità, però punta su quello. Ma il vero colpo di teatro arriva da Berlusconi, che in diretta televisiva cala l'asso nella manica con questo celebre annuncio. Per noi la casa, la prima casa, è sacra, come è sacra la famiglia. Per questo aboliremo l'ICI. Avete capito bene? Aboliremo l'ICI su tutte le prime case e quindi anche sulla vostra. È una decisione coraggiosa ma profondamente sentita. Ecco, l'abolizione dell'ICI sulla prima casa è la grande promessa elettorale di Berlusconi, che però non gli basta a vincere le elezioni. Alla fine è l'unione di Prodi a vincere e il professore forma il suo secondo governo dopo quello del 96. Al suo fianco due vicepresidenti del Consiglio, che sono Rutelli e D'Alema. Ma a maggio, intanto, finisce il settennato del presidente Ciampi, iniziato nel 99, e il 15 viene eletto il nuovo presidente della Repubblica. È con profonda emozione che mi rivolgo a voi in quest'aula, nella quale ho speso tanta parte del mio impegno pubblico, apprendendo dal vivo il senso e il valore delle istituzioni rappresentative, supremo fondamento della democrazia repubblicana. Sono le assemblee elettive, è innanzitutto il Parlamento, il luogo del confronto. Naturalmente è Giorgio Napolitano, classe 1925, napoletano, storico uomo del PC, ed è la prima volta che un ex comunista diventa presidente della Repubblica. Ed è l'unico presidente nella storia repubblicana del nostro paese ad essere stato rieletto per un secondo settennato nel 2013, mandato che poi non ha portato a termine perché si è dimesso prima. Ma è anche l'unico capo dello Stato comunque ad essere stato eletto due volte alle Camere. In questo 2006 poi ci sono anche le elezioni amministrative, Franky. Il 28 e il 29 maggio primo turno e poi ballottaggio l'11 e 12 giugno. A Torino vince Sergio Chiamparino, a Milano Letizia Moratti, a Napoli Rosa Russo Iervolino, a Salerno Vincenzo De Luca. Ma la sfida più grande è a Roma, tra Walter Veltroni e Gianni Alemanno. Veltroni, sindaco uscente, viene riconfermato con il 61,42% dei voti contro Alemanno. E poco dopo le amministrative, noi votiamo anche per il secondo referendum costituzionale del nostro paese. Al centro della questione c'è la devolution di Bossi, ovvero la devoluzione dei poteri alle regioni, il premierato forte, diversi poteri tra Camera e Senato. Gli italiani vengono chiamati a votare a favore o contro le modifiche alla Costituzione volute dal centrodestra di Berlusconi. Vota il 61,3% degli italiani che respinge le riforme. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Mix 24, musica e storia. Sei nell'anima. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia, io sono Alessandra Fiori. E io sono Franco Schipani, ciao. 2006, Franky, e lei, la grandissima? La prima abbiamo ascoltato Laura Pausini, adesso Gianna Nannini con Sei nell'anima. Ecco perché mentre succede tutto quello che stavi raccontando, cara Ale, la Pausini pensa nel 2006, si aggiudica addirittura i Grammy Awards della sessione latina. Che a te piace sempre. Piace sempre, è ovvio. Ovvio. Mi piace molto quanto canta in spagnolo. Ecco, prima di lei c'era riuscito soltanto Domenico Modugno e... Pensa che ancora oggi, quando tu parli di Laura Pausini in Sud America, i sudamericani sono convinti che lei non sia italiana, ma sia... latinoamericana. Sì, di Porto Rico al massimo, capito? Comunque, Franky, grandi successi all'estero per i nostri cantanti che per due anni di seguito sono presenti, quindi però... abbondantemente nelle nostre classifiche. Sì, giusto? certo, sono in tanti, Alessandra, e comunque non si accontentano, perché dopo aver scalato le nostre classifiche, quelle europee e quelle americane, continuano comunque a fare un po' l'occhiolino anche ai paesi anglosassoni, magari con un aiutino. Ho camminato su pensieri ripidi, io m'affersi per solitudine e deserti aridi. Lisa e Tina Turner, prima I Belong to You, Eros Ramazzotti e Anastasia. Ricordiamo che Eros Ramazzotti aveva precedentemente collaborato con Tina Turner in Cose della vita. Comunque si tratta di collaborazioni, cara Alessandra, di altissimo livello che lasciano il segno. Lasciano il segno, Franco, e restiamo all'estero perché il 7 ottobre alle 17 a Mosca viene uccisa Anna Politkovskaya, la giornalista russa di Novaya Gazeta, esperta di diritti civili, amata e conosciuta all'estero, aveva firmato più di 2000 articoli sulla guerra in Cecenia, sulla tragedia della Dubrovka e su quella di Beslan che abbiamo raccontato negli anni passati. Mentre stava tornando a casa, Anna viene uccisa con 4 colpi di pistola in rapida successione, poi il colpo di grazia alla nuca. Aveva 48 anni. A Mosca ci sono 40 giorni di lutto per lei, che dalle colonne del suo quotidiano da anni condannava apertamente il governo russo di Vladimir Putin e l'esercito per lo scarso rispetto dei diritti civili del popolo russo. Non è possibile, urla la mia coscienza, che le nostre autorità si ostinino in modo così imbecille ad opprimere quelli che vivono qui. Perché continuare a perseguitare abitanti che hanno già sopportato fardelli disumani per il solo fatto di essere rimasti in questa orribile città? Perché far sentire loro ogni giorno, anzi ogni minuto, che non sono altro che feccia umana? Feccia animale. Per il suo omicidio nel 2012 è stato condannato in via definitiva il poliziotto che aveva organizzato il pedinamento. Nel 2014 sono stati condannati gli esecutori materiali. Ma oggi, a 11 anni dalla sua esecuzione, la verità sui mandanti è ancora lontanissima. All'omicidio di Anna è collegata anche un'altra morte, sempre di un cittadino russo che, in comune con la Politkovskaya, ha il fatto di essere un accusatore del governo di Putin. Il suo nome è Alexander Sasha Litvinenko. È un ex agente del KGB, è un dissidente e accusatore del governo di Putin e per questo è da anni rifugiato nel Regno Unito, a Londra. E proprio qui, il 23 novembre, muore. Il suo è un caso internazionale molto complicato, una vera e propria spy story, dove fa la sua comparsa anche un italiano, Mario Scaramella, col quale l'agente, anzi l'ex agente, aveva un appuntamento qualche giorno prima di essere avvelenato. Sasha viene avvelenato col polonio 210, una sostanza molto radioattiva che lo condanna a una lenta agonia in ospedale. Le drammatiche immagini della sua sofferenza fanno il giro del mondo. Amico della Politkovskaya, dopo aver pubblicamente indicato più volte il presidente Putin come mandante del proprio omicidio e di quello della giornalista, Litvinenko muore in ospedale a Londra e aveva solo 46 anni. Il mio nome è Alexander Litvinenko e sono un ex agente del KGB. Io sono diventato amico di Anna Politkovskaya 3 anni fa. Veniva a casa mia, ha conosciuto mia moglie, il mio bambino. Tu pensi mi possano uccidere? Mi ha chiesto nell'ultimo incontro. E io le ho sinceramente risposto di sì. Ora sono assolutamente convinto che solo una persona in Russia potesse colpire Anna, nonostante la sua fama e la sua credibilità. E questa persona è Putin. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Siamo nel 2006, io sono Alessandra Fiori e qui con me c'è lui, Franco Schipani. Ciao a tutti, ciao Ale. Ciao Franchi. Allora, nel 2006 si continua a duettare. Avete ascoltato prima One Love di Mary J. Blige con gli U2 e questo era Maschenata di Sergio Mendes con i Black Eyed Peas. Si duetta un po' per il piacere di farlo, un po' per esigenza di mercato. Comunque, come hai sentito, nessuno di questi immensi artisti aveva proprio la necessità di duettare, perché ce la poteva fare tranquillamente anche da solo. Si tratta di brani prodotti più, diciamo, dalla curiosità artistica più di quella di farsi notare. Però, Franchi, lo sai che pensavo? Che l'altro giorno, anzi l'altr'anno, mi parlavi del duetto virtuale tra Madonna e Britney Spears. Che più virtuale non si può. Ma non ci ho più provato. Dunque, Madonna nel 2006 fa coppia solo con suo marito, Guy Rich, regista inglese. Ecco, con lui inizia ad interessarsi all'Africa, apre un orfanotrofio, diventa testimonio di una campagna sull'AIDS e adotta un bambino africano. Ecco, però trova anche il tempo di registrare anche delle nuove canzoni che vanno puntualmente in classifica anche da noi. We'll be right back. E questa è la tua amatissima Madonna e anche mia un po' a questo punto. Ti sei affezionato, cedo. La mi ghiaccio tutta. Le piace tutta. Stavano ballando. Hai visto? Hai visto? Era Madonna con Sorry. Ecco, questo è un brano dalle sonorità un po' dance pop che è stato scritto e prodotto da Madonna insieme a Stuart Prince. Ecco, per la sua realizzazione è stato utilizzato un campionamento, perché niente si crea, niente si distrugge. E in questo caso è addirittura dei Jackson 5, Can You Feel It? Addirittura datato 1981. Insomma, per Madonna, mia cara Alessandra, non è mai crisi. Ecco, invece Frankie, crisi c'è tra Islam e Danimarca. Il 30 settembre del 2005 12 vignette satiriche appaiono sulla Jelland Posten, il quotidiano più diffuso in Danimarca. Vignette che mostrano Maometto con il turbante a forma di bomba, oppure Maometto con gli occhi coperti tra due donne che hanno scoperti solo gli occhi. Ecco, le vignette vengono fortemente contestate e aprono un dibattito in tutto il mondo tra chi sostiene la loro pubblicazione, facendo appello alla libertà di espressione soprattutto, e chi, ritenendole blasfeme, condanna l'atto del giornale danese. Le polemiche comunque si protraggono per tutto il 2006 e in diversi a inizio anno, comunque in diversi stati a maggioranza musulmana, esplodono proteste che diventano anche molto molto violente, proteste che fanno registrare alcuni morti. La questione arriva ovviamente anche in Italia e a infiammare le polemiche è il ministro per le riforme Roberto Calderoli. E la mia, con la mia t-shirt è una battaglia di libertà, poi lei non ci crederà, ma lo indossa anche adesso. Grazie, grazie. No, ma guardi, è proprio qui se vuole. Quindi non ha rinunciato, non, ha disobbedito. No, io la porto perché è una battaglia di libertà e di democrazia. Ecco, Calderoli va al TG1 indossando sotto la camicia una t-shirt con stampate le vignette su Maometto contestate dall'Islam. Questa sua apparizione provoca reazioni violenti nei paesi islamici, compreso l'assalto al consolato italiano a Bengasi e la chiesa nella stessa città. Il 18 febbraio Calderoli sarà costretto alle dimissioni. So you could keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Because Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie. And I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go. Real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. Babe, I know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, Shakira, this is perfection. Online, Shakira featuring Wyclef Jean, che poi c'era Stars, questa che state ascoltando, Are Blind di Paris Hilton, che è la capostipite un po' dei Rich Kids. Paris Hilton, che è stata definita famosa per essere famosa. Questo è giusto, comunque, ci sta. E comunque, grazie alla signorina Paris Hilton, nel 2006 ho fatto il mio glorioso ingresso in un porno shop di New York. Perché un mio amico di Roma mi ha detto: guarda, è uscito un video fantastico che si intitola A Night in Paris. Cioè, capito il doppio senso? A Night in Paris. Elegantissimo. Lo ha girato Rick Salomon, che all'epoca era il suo fidanzato ed era in vendita in questi negozi. Entro nel negozio, ne ho comprate 10 copie, costavano $50 l'uno. Beh, un investimento. Non ho mai capito perché. Sì, ho detto: ma che ci devi fare? Li devo distribuire. Lei ha molti fans qui in Italia. Capito Franchi, comunque con Paris chiudiamo anche basta. Perché sennò dovremmo parlare di come ha ottenuto le liberatorie Rick Salomon e perché, per questo video che poi alla fine lei gli ha fatto allora comodo. Ci facciamo una puntata? Una puntata, va bene, una puntata per Paris. Comunque una puntata a parte meriterebbero anche alcuni fatti che ti vado a raccontare. Il primo è l'arresto di un personaggio che in questo 2006 termina la sua lunghissima latitanza. Il suo nome è Bernardo Provenzano, il capo dei capi di Cosa Nostra. Nostra. L'antefatto è che c'erano 8 anni di indagine, per cui, giusto per capire un po', come dire, l'adrenalina che c'era in quel gruppo di lavoro che si trovava a pochi metri dal casolare di Provenzano. Per cui, ultimo briefing, ricordo chiaramente a 10 minuti prima dell'irruzione, facciamo un briefing a pochi chilometri da quel casolare, gli ultimi dettagli, soprattutto scongiurare un pericolo, come dire, di fuga dell'abitante. In quegli anni sapevamo che lui... Questo è il racconto di Renato Cortese, uno dei protagonisti di quel blitz della polizia di Palermo. Quando viene trovato, Provenzano mormora: siete stati bravi. La reazione di Provenzano al momento dell'irruzione è stata ovviamente i primi secondi di smarrimento, e che non aveva ancora consapevolezza di quello che stava succedendo, un'azione fulminea che lo ha sicuramente immobilizzato. Poi col passare dei secondi ha capito, si trattava di un'operazione di polizia, quindi la rassegnazione ha preso il sopravvento e quella smorfia che si è messa sul viso, che poi ha mantenuto per tutto il tempo. Condannato a 3 ergastoli, Bernardo Provenzano viene arrestato l'11 aprile del 2006 dopo 43 anni di latitanza e finisce così la sua carriera criminale. Ma poi in questo 2006 c'è un altro caso di cronaca che fa molto discutere. È il 20 dicembre quando muore Piergiorgio Welby, gravemente malato di distrofia muscolare. Welby da anni chiedeva alla politica e al mondo intero che venissero staccate le macchine che lo tenevano in vita. Poco prima di morire, il 21 settembre del 2006, manda un messaggio al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in cui denuncia la sua situazione e chiede di ottenere l'eutanasia. Io amo la vita, presidente. Morire mi fa orrore. Purtroppo, ciò che mi è rimasto non è più vita. È solo un testardo e insensato accanimento nel mantenere attive delle funzioni biologiche. Il mio corpo non è più mio. La mia volontà, la mia richiesta, poter ottenere l'eutanasia. Vorrei che anche ai cittadini italiani sia data la stessa opportunità che è concessa ai cittadini svizzeri, belgi, olandesi. Ecco, Welby è diventato un simbolo della battaglia per l'eutanasia. Il suo caso rappresenta un precedente giudiziario per il diritto all'interruzione delle terapie, ma anche una tappa per far maturare in Italia il dibattito sull'eutanasia. E oggi, a 11 anni da quel giorno, in Italia manca ancora una legge che regoli il fine vita. Intanto, saltando dall'altro lato del globo, il 30 dicembre tutte le televisioni del mondo trasmettono l'esecuzione di un capo, di un dittatore. È Saddam Hussein, che viene impiccato a Baghdad. Le sue ultime parole, riportano alcune fonti, sono state: spero che siate uniti e vi esorto a non creare un'alleanza con l'Iran, perché gli iraniani sono pericolosi. Io non ho paura di nessuno. Franco, ci sei? Sì, ti vedo. Mi siamo vedi? Pronti? Hai visto lo sguardo? L'ho visto, immancabile appuntamento con Sanremo. Bravo. Certo, Sanremo. Ecco, lo presenta Giorgio Panariello, affiancato da Ilori Blasi e Vittoria Cabello. Scenografie dei premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavio, ma è ancora un momento di stanca. Pensa che la media è appena superiore al 40%. Media di spettatori, beh, poco più di 8 milioni. Più o meno come fa un piccione. So che è brutto il paragone, però vivrei con l'emozione di dare fiducia a chi mi tira il pane. Più o meno come fa un piccione, l'amore sopra il cornicione, ti starei vicino nei momenti di crisi e lontano quando me lo chiedi. Dimmi che ci credi e che ti fidi. Insomma, non proprio bene questo Sanremo 2006, anzi, decisamente come non un piccione. Bene, però insomma Povia, con questo vorrei avere il becco, ha avuto un grande successo, perché poi, sai, lui esalta i valori della monogamia, della fedeltà coniugale, questo era il tema. Con i piccioni. Fedeltà coniugale, attenzione, perché Francesco Totti arriva a Sanremo, Hillary Clinton è lì che sta presentando. Magari Blasi. Sì. Hillary Blasi. No, tu pensavi la Clinton. Sì, tu dici Hillary Clinton, io penso la Clinton. Volevo vedere se eri attenta. Ero comunque era la Blasi. Era la Blasi, si scambiano tenerezze lì in platea e lui la lascia con sulle note di questo piccolo grande amore, capito? Calcio e tenerezze, Franchi. Calcio e tenerezze, ma c'è anche chi con il calcio non lancia affatto teneri messaggi. Ho parlato di calcio. Ho fatto questa canzone, non l'avessi mai fatto, ho parlato dei juventini. Vi ricordate, la Juve andava in Serie B E io ho pensato di cantare in una canzone la tristezza, l'amarezza del povero tifoso juventino che vedeva la propria squadra blasonata precipitare tutto in tratto in Serie B. E qualcuno ha pensato che io volevo prendere per il culo. Sì, volevo prendere per il culo, ma non si può prendere per il culo. È domenica e quanto vorrei che sarebbe di già lunedì. Com'è triste la vita se sei in Serie B. La parabola non servirà, la gazzetta non compro da un po', dentro al Parmo che torno sarà tutto un sfottò. Ma la cosa più atroce. E allora questo è Checco Zalone, l'avete riconosciuto con la canzone I Juventini. I Juventini, stupendo. Ecco, nell'anno dei mondiali la Juventus è in Serie B. I nostri artisti invece considerano il Festival di Sanremo proprio di Serie B e preferiscono la Serie A. E la Serie A nel 2006 a questo punto vuol dire soltanto una cosa: Festival Bar. Al mio banco un hip hop petaro sniffa polvere da sparo, dice che un tipo è capace per quanti buchi ha nel torace, lo capisco ma preferisco Carol a dischi di artisti muscolosi, orgogliosi dei loro trascorsi malavitosi, vanitosi, ripresi con pose da bellicosi, mentre io sono fiacco ed ho la mononucleosi, studio in una classe di risosi. Happy Hour, Ligabue, la mia parte intollerante, Caparezza. Pensa che questo festival, Alessandra, questo festival bar doveva presentarlo Amadeus, però era ancora sotto contratto con la Rai, quindi la Rai non gli ha dato la liberatoria anche se stava andando via. Che dici, sarà una vendetta per un Sanremo andato male? Guarda, la dietrologia sanremese io la lascio a te, tutta tua. Però tu hai parlato della Juventus in Serie B, perché il 2006 è l'anno in cui scoppia lo scandalo di Calciopoli, che in realtà nasce nel 2004 sulla base di alcune intercettazioni, ma il vero terremoto arriva proprio in questo 2006, a maggio. La bufera coinvolge, tra gli altri, altri personaggi come Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Diego Della Valle, Claudio Lotito e gli ex designatori Bergamo e Pairetto. Si dimette anche l'allora presidente della FGC, Franco Carraro, che poi è uscito prosciolto dalla vicenda. Con le prime sentenze la Juventus viene retrocessa in B con 30 punti di penalizzazione per l'anno 2006-2007. Anche Fiorentina e Lazio vanno in B e poi con le sentenze di secondo grado alla Juve viene revocato lo scudetto 2004-2005 e non viene assegnato quello del 2005-2006 che poi viene assegnato all'Inter. Resta il più grande scandalo storisportiva del nostro paese. Franky, adesso classifiche di calcio, puoi tornare alle tue classifiche musicali. Però torniamo alle classifiche questa volta degli Stati Uniti, perché sì, nel 2006 ci sono delle canzoni che alcune non sono arrivate da noi, sì, altre invece, tipo quella di un gruppo che da noi, ecco, insomma, non sbaglia un colpo. Cause you had a bad day, you take one down, you sing a sad song just to turn it around, you say you don't know. Tell me don't lie, you were gonna smile and you go for a ride. You had a bad day, the camera don't lie, you come back down and you really don't mind. You had a bad day, you had a bad day. Getting down in the state of Mississippi, Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer, the price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel. Another way to survive. Bad Day, Daniel Potter, questa è una canzone del 2005, è andata in classifica. L'abbiamo sentita, sì, infatti. Sì, nel 2005, perché è un pezzo che merita, invece nel 2006 non è in classifica qui da noi. E poi, ma rimane di là, assolutamente, non si sposta di là, rimane in classifica. E invece questo gruppo, l'avete riconosciuto, ormai fanno parte, ospiti fissi della nostra classifica, felicità estrema per la nostra Rachele Caracciolo, Danny California, Red Hot Chili Peppers. Sì, c'è stato un piccolo dibattito con Chiappini durante la canzone. Qual è il più bello? Io ho azzardato, ho detto Californication. Ma sei pazza, ma ti metti in mezzo a queste discussioni? Ho detto, hai ragione, carità, è vero, scusa, ho sbagliato. Perdono. Meno male che c'è un vetro tra noi e loro. Meno male, meno male. Comunque, nelle sale cinematografiche intanto ci sono dei grandissimi film nel 2006. Te ne dico qualcuno. The Departed, Il Codice da Vinci, che è forse un po' meno grande, Pirati dei Caraibi, Babel, Le Vite degli Altri, Scoop, La Ricerca della Felicità. Ma al cinema esce anche questo film. Non capisco perché sia tanto difficile confermare un appuntamento. Lo so, mi dispiace Miranda, veramente l'ho confermato ieri sera. I dettagli sulla tua incompetenza non mi interessano. Dì a Simone che non intendo approvare la scelta della ragazza per il servizio brasiliano. Io l'ho chiesta pulita, atletica, sorridente. Me l'hanno mandata sciatta, moscia e con la pancia. E rispondi sì per la festa di Michael Kors. L'autista ecco, sciatta, moscia e con la pancia. Lei è la grandissima Meryl Streep. Naturalmente il film è Il Diavolo Veste Prada con Anne Hathaway. E il film diventa un cult. Lei è imbranatissima. Beh, ma è meravigliosa. Fantastica, che lei fantastica. Entra bruttina. Ed esce poi ed è esce, una strafiga. Meravigliosa, meravigliosa. Però è una di quelle bruttine camuffate. Diciamo le bruttine sono altre. Ecco. Ho capito. Ok, comunque un cult arriva anche dalla scrittura in Italia. Nel 2006, a marzo, un giovane ragazzo napoletano pubblica con Mondadori un libro che diventerà un assoluto bestseller. Venderà milioni di copie e sarà tradotto in 52 lingue. Diventerà un film, finirà agli Oscar. Insomma, hai capito di cosa sto parlando? Sì, sì, di Gomorra stai Bravo, parlando. Ovviamente. Roberto Saviano con Gomorra, Viaggio nell'impero economico nel sogno di dominio della Camorra. Nel 2014 Gomorra diventa una serie di grandissimo successo su Sky e le battute di quella serie diventano un vero e proprio tormentone. L'uomo che può far venire tutte cose non ha paura di niente. Definitivo. Mamma, tu hai visto partecipare a un programma di cucina in televisione? Sta senza pensiero. E allora stai contento? Bene, stai contento, Franco. Nel frattempo ci siamo persi qualcosa di questo 2006? E allora, guarda, finiamo come abbiamo iniziato. Preso dentro al buio che avanza, vieni tu a dare luce al mio giorno. Trascinato sotto dall'onda, ho rincorso il mondo. La tua mano tesa mi è apparsa e adesso sto risalendo. Per favore non fermarti. Mio padre ha visto il primo. Neffa, il nuovo mondo. Neffa. Per me rimane sempre l'altra, la preferita. Com'era? Aspettando il sole, mi sembra si chiami. Sì, una cosa del genere. Una cosa del genere. Allora, alla fine di questo 2006 ci siamo arrivati. E prima di chiudere, come sempre, c'è la scelta di Antonella Migliaccio. E per questo anno c'è. Vogliamo fare una playlist proprio La scelta della Migliaccio. Lo sai, le scelte della Migliaccio. Non è mica una cattiva idea, mi piace, perché lei ci azzecca. Comunque, ci azzecca. Questo 2006, la Migliaccio ci tiene a dire che esce un disco che lei ama molto, un cantante che ama molto anche il cantante. Il disco è Ovunque Proteggi e il cantante è Vinicio Capossela. Quindi noi vi salutiamo e vi lasciamo con il singolo Ovunque Proteggi, il 2007. Ottima scelta. La ciao prossima. A tutti da Franco Schipani. Ciao da Alessandra Fiori. E ci risentiamo nel 2007. Non dormo gli occhi aperti per te. Guardo fuori e guardo intorno. Gonfia la strada di polvere e vento nel viale del ritorno.